Dagli studi di Radio Panorama, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda! E buonasera e benvenuti nuovamente all'ultima puntata di questo speciale dell'Onda in Onda. Abbiamo fatto due puntate speciali per chi ci ha seguito in questo anno qui su Radio Panorama. Io sono sempre Andrea, dietro il vetro alle mie spalle c'è il buon regista Bummo, ma anche il mio co-conduttore Antonio. Dimmi, regista, come sempre, in queste due puntate speciali. Scusate, abbiamo chiuso due settimane fa con l'avventura dell'Onda in Onda, ma non potevamo lasciarvi senza gli ospiti che ci sono venuti a trovare la settimana scorsa e questa settimana. Infatti questa settimana avremo due ospiti eccezionali, Le Corde Pazze, una band siciliana, anche se sono di Palermo, cioè si sono formati a Palermo, ma non sono tutti quanti di Palermo, ne saprete più avanti ovviamente per chi non li conoscesse, ancora sono famosissimi nel corso della puntata, e poi l'immancabile Immanuel Cast. Finalmente con noi, più avanti nel corso della puntata sentirete anche l'intervista con lui. Non potevamo lasciarvi senza, ma non possiamo lasciarvi senza i nostri contatti per seguirci. Allora, radiopanorama.it se volete seguirci in streaming audio e video, poi ovviamente facebook.com/radiopanoramati oppure facebook.com/londainonda senza apostrofo per il nostro la nostra pagina dell'Onda in Onda, infine twitter.com/ondainonda invece senza la L, se volete interagire con noi attraverso Twitter, l'hashtag Onda in Onda. Inoltre SMS al 380 76 90 204, li leggeremo in diretta assieme a voi. Bene, non abbiamo detto tutto, mi sa, sì, e la puntata andrà in onda come nello speciale precedente in forma ridotta, quindi non dalle 18 alle 19, infatti se avete ascoltato non ci siamo stati, ma dalle 19 alle 20, quindi dureremo poco, speriamo di essere abbastanza forti da tenervi incollati un'ora presso i nostri microfoni, quindi partiamo subito con la nostra sigla. One, two, three, four. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. Onda in onda, pombo, clappio, doppio, piano, che va, yamai! One, two, three, four! Noi siamo i giovani, giovani più giovani, siamo l'esercito del sangue. Noi siamo i giovani, giovani più giovani, siamo l'esercito del sangue. Noi siamo i giovani, giovani più giovani, siamo l'esercito del SEF. Mi mancherà non sentire Piotta fino a settembre. Beh, ma lo mettiamo a casa. Lo mettiamo a casa, ce lo sentiamo noi. Dovremmo richiamarlo, magari il prossimo anno ci fa la nuova sigla per il programma. Allora, io direi di lanciare subito il primo pezzo di questa puntata e poi rimanete con noi perché ci saranno in diretta Le Corde Pazze. Ieri andando a fare due passi in un percorso di fede, smaltire i peccati con i giochi, ma sono troppi peccati mortali che ho collezionato. Per esempio, ho fatto adulterio, mentito, rubato, continuamente pisello, truccato. Fin dall'età di 6 anni ero già condannato. Eterno, gli onanisti, i comunisti e Gengis Khan. Chi l'avrebbe detto che sarei finito dannato? Ma come ti muovi, ti imbatti in un peccato? Credi in un gruppetto di dei e poi li nomini in vano. santificare. Non onori i papi, non onori la mami. Accidentalmente assassini la gente. Dopo una cena elegante all'improvviso formichi. Tu insieme all'inferno. All'inferno, all'inferno, all'inferno, all'inferno, all'inferno. Come la Reggio Calabria Salerno a Ferragosto. Protezione totale contro il fuoco infernale. Non c'è, non c'è. Tutti nudisti ustionati, dannati forever and ever. Oh yeah. Pure tu all'inferno. Pure tu, pure tu, pure tu, pure tu, pure tu. E all'inferno deve essere finito il cellulare di Alfonso delle Corde Pazze, perché a quanto pare l'operatore non riesce a prendere, ha perso la linea, quindi non possiamo ascoltare l'intervista con le Corde Pazze in questo momento, ma rimanete con noi perché ovviamente ne sentirete, la sentiremo più avanti, magari dopo Immanuel Caso. Ci scusiamo per questo inconveniente, è il bello della diretta. Va bene, allora, intanto io ricorderei i contatti prima di lanciare il prossimo pezzo. Radiopanorama.info o.eu se volete, no, scusate, info.it se volete ascoltarci in diretta e vederci in diretta streaming, ovviamente, e poi radio, scusate, facebook.com/radiopanorama.ti oppure facebook.com/l'onda in onda se volete ascoltarci nella nostra pagina Facebook. Inoltre twitter.com/onda in onda invece per interagire con noi tramite Twitter. Infine sms al 380 76 90 204. Caro regista, io direi che potremmo leggere una di quelle notizie che fanno scalpore, no? Hai sentito ieri che c'è stato la condanna di Berlusconi. Sì, insomma, notizie di quelle importanti. Una di quelle notizie che, diciamo, sono in linea con queste notizie di politica. Con la condanna? Sì, sì, sì, soprattutto politica internazionale. La sposa e la lapide, la foto fa il giro del web. Dove può essere successa questa stronzata? Negli Stati Uniti. Ovviamente. Ovviamente. Una fotografa di matrimoni del Michigan ha catturato il momento straziante in cui la sposa, che recentemente ha perso il padre che adorava, cade in ginocchio accanto alla lapide lungo la strada verso l'altare. Impossibilitata ad avere il suo papà per accompagnarla lungo la navata nel giorno del suo matrimonio, il 7 giugno scorso, ha chiesto di fare una sosta al cimitero dove suo padre Mark è stato sepolto circa 18 mesi fa. Paige, che è il nome della ragazza, Paige Edding, è vestita nel suo abitissimo abito bianco, è stata così sopraffatta all'emozione ai piedi della tomba di suo padre. E la fotografa Cari Viringa, perché tutti hanno nomi strani, tutte notizie che leggo io non lo capisco, ha immortalato quel momento commovente. Viringa ha poi condiviso la foto sulla sua pagina Facebook una settimana dopo il matrimonio con il permesso di Paige, e l'immagine da allora è diventata virale, ottenendo più di 719.000 mi piace, ed è stata condivisa su siti come Reddit. Io immagino le notifiche che avrà avuto questa foto. Ping, ping, ping, ping, ping. Hai 719.000 notifiche. Mamma mia. Una foto interessante, sicuramente andatela a cercare per vederla, perché avrà insomma il suo perché questa foto. Poi possiamo ovviamente continuare sull'onda delle notizie di tristi anche, visto tristi, dopo tristi, la sì, morte sì, del papà di Paige. Di Paige possiamo continuare con c'è una la morte notizia della passera di, cioè no, la passera, l'uccellino. No, no, insomma, no, questa, ci spostiamo però. Ci spostiamo non dagli Stati Uniti ma a Londra. Rimaniamo in lingua anglosassone. Ragazza a letto con 360 scusate, 370 uomini. Non toglierne 10. No, no, no. Ho sostituito la solitudine con il sesso. Vabbè, a Londra ovviamente un nome normale poteva averlo, se la devo leggere io. No, infatti si chiama Seicolade. Il nome è tutto un che dire, insomma. Cioè, soltanto una con un nome così poteva stare con 370 uomini. Seicolade, non è cinese, immaginate. Per 13 anni ha fatto l'amore tutti i giorni della sua vita con molti sconosciuti. Però io non capisco. Cioè, 370 uomini, quindi più volte un uomo al giorno. Perché se 13 anni, 356 sono i giorni dell'anno, 370 sono gli uomini, no? Più volte, vabbè, sì, ok. Ma non è in un anno, è in 13 anni. È in 13 anni, appunto, quindi dico più volte anche con lo stesso uomo. Con molti sconosciuti, infatti, colpa di una dipendenza che le ha causato fallimenti personali e professionali. Sei! Oggi avvocato 35 anni, ha cominciato a 17 anni. La dipendenza dal sesso, molto spesso, racconta Sei al The Sun, viene associata solo agli uomini. Nulla di più sbagliato. Ha distrutto la mia vita per più di 13 anni. Era un ciclo dal quale non riuscivo a scappare. L'adolescenza di Sei non è stata per nulla facile. A 13 anni perse la virginità e durante il suo primo rapporto sessuale rimase incinta. Una sfigata. I servizi sociali la aiutarono per i primi anni, seguendo la crescita della sua bambina Sara. Ah, un nome normale la bambina. Mi sentivo terribilmente sola per tutti quelli intorno a magari me. Magari la chiamano Sara. Sara, certo. O Sari. La mia condizione di ragazza madre era vista come uno sfregio. Desideravo affetto. Fu allora che cominciai a sostituire la solitudine con il sesso. Fu una delle cose più brutte che potessi fare. Spesso anche 4 o 5 volte al giorno. Io direi che Si è data da fare e noi siamo con sei, siamo con te. Sei o sette, poteva anche cambiare. Dal 370. Sei al giorno. Va bene, ci ascoltiamo subito il prossimo pezzo. We'll be right back. li abbiamo annunciati nella nostra anteprima e abbiamo con noi in diretta live Alfonso Moscato delle Corde Pazze. Ciao Alfonso, come stai? Ciao ragazzi, come va? Benissimo, ciao. Come stai e dove sei? Io in questo momento sono a Lisbona. Minchia, scusa. Minchia. A Lisbona. Sono a Lisbona. Sono a Lisbona, a Praça do Crowdfoto do Gino do Pichinho, un posto del genere, insomma. Ho capito, ho capito, non ci ho capito niente, però va bene, non ti preoccupare, mi fido su tutto quello che hai detto. Non ha importanza capire, l'importante è sentire. L'importante è sentire. Senti Alfonso, parlaci di questa impronta. Allora, cosa è l'impronta? Ma sono quattro malati di mente che fondamentalmente hanno avuto lo sghiribizzo di... Lo sghiribizzo, diciamolo per chi ci ascolta un po'. Cos'è lo sghiribizzo? Sì, sì. Come possiamo lo tradurlo? Lo sghiribizzo è una specie di capriccio... Ah, ecco, ecco. È un po' così, un po' goffo di voler patrocinare l'uscita al secondo disco delle Corde Pazze, che io non l'avrei fatto. Questi quattro pazzi però diciamolo chi sono, perché non sono nomi da niente. C'è Dori Ghezzi, Teresa Mariano, Luisa Melis e Massimiliano Cotto. È Massimo Cotto, sì. Massimo Cotto, sono scusa. Questi quattro ragazzini che sì. Hanno detto... Soprattutto Dori Ghezzi, cioè, con tutto il rispetto però, sì, sì. Un mostro sacro della musica. Sì. E tra l'altro anche donna, è anche no, una un mostro, no, una mostro sacro, ma una bellissima donna, ricordiamo la moglie di André, quindi mica cosa. Hanno deciso di patrocinare insomma l'uscita del nostro secondo disco. Senti, che se accadrà, sì, inshallah. Avverrà al metà di settembre, quindi si spera attorno al 15 settembre, poi non capirò qualche terza guerra mondiale. Chiaramente noi rinizieremo a settembre, quindi ci risentiremo non appena esce il disco, ma intanto è uscito il singolo La Rivoluzione, che voi stessi definite inutile. Come mai questo singolo è così inutile? Sì, diciamo che non è la canzone che è inutile. La canzone che è inutile, sì, ma certo, no? Ma... Sì, perché questa rivoluzione fondamentalmente noi italiani non l'abbiamo mai saputa fare, quindi cioè, culturalmente non lo sappiamo fare, quindi è un'altra canzone inutile che la evoca, ma ha evocato un morto che non riesce a resuscitare. Beh, Frankie Energy diceva che non si fa. Italiana. Frankie Energy diceva che non si fa perché l'hanno detto in televisione, ricordi? Esatto, beh, quindi... esatto, non si fa quindi rimaniamo tutti a casa, insomma. Rimaniamo tutti a casa. Come in Portogallo, guarda, come in Portogallo. Esatto, tanto sei lì vicino, diciamo. Ma senti, scusami, io vorrei un attimo capire, voi vi siete formati a Palermo, però non siete tutti quanti di Palermo. Come mai questa... come vi siete trovati, diciamo, voi Corde Pazze? Ma, diciamo che il fattore che ci ha fatto incontrare è stata l'istruzione pubblica, quindi dobbiamo ringraziare il Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca. Ma che paraculata è? Vi siete incontrati all'università, dai? Perché siamo incontrati all'università, quindi insomma, quindi eravamo lì nei corridoi a fumare. Fuori corso. Tu suoni, sì, ma io suono, anch'io suono, ma questa lezione è una palla, andiamo a suonare, quindi da lì è nato tutto. Eh beh, no? Però voglio dire, dalla noia, però siete stati vincitori del premio Fabrizio De André, siete stati ospiti al premio Tenco e leggo anche al Teatro Harrison di Sanremo. Sì, siamo stati un po', abbiamo visto un po' di palchi storici della canzone italiana, ma in un ormai quasi remoto passato, perché sai, in questi tempi insomma le cose vanno velocissime, quindi capisco. Eravamo giovani, diciamo. Senti, ma io so che voi per riuscire ad uscire dal gruppo dei suonatori palermitani avete sperimentato quello che è poi l'etichetta indie milanese. Come mai questa difficoltà di riuscire ad emergere in una città come Palermo? Ma il problema non è Palermo, non è Roma, non è Milano, il problema forse non c'è neanche, cioè nel senso che quello che sta succedendo in questo momento è che è crollato l'impero romano e quindi dopo l'impero romano crescono piccole realtà che hanno evidenti problemi di organizzazione di risorse, e quindi sai, sta ripartendo il mondo nuovo e non è facile subito dare un'impronta, ecco, come vogliono dare questi quattro simpatici ragazzi. Un pensiero un po' anacronistico. Senti Alfonso, ma noi cosa dovremmo aspettarci a settembre dal vostro nuovo album, a parte la rivoluzione? Ma guarda, aspettate delle canzoni, che sono delle canzoni che raccontano un po' gli anni che abbiamo passato e che stiamo vivendo in questo momento, quindi io credo che sia un disco abbastanza incazzato. Poi non lo so cosa può diventare, nel senso che se poi ho ogni disco un suo destino, indipendentemente da quello che tu volevi imprimerti di sopra, no, come autore. Quindi magari va interpretato in maniera, può essere che sarà interpretato in maniera diversa. Io ci ho visto questo e ci ho sentito questo quando l'abbiamo scritto e l'abbiamo fatto. E noi allora lo aspetteremo con ansia. Intanto ci ascoltiamo ovviamente La Rivoluzione. Noi ti ringraziamo Alfonso, ti lasciamo a Lisbona. Mi raccomando, divertiti qualsiasi cosa tu stia facendo, e in bocca al lupo per tutto. Grazie ragazzi. Ciao. Un abbraccione, grazie. Grazie a te. Vabbè. Ci ascoltiamo La Rivoluzione, Corde Pazze. La rivoluzione in 5 ore, 15 minuti appena, le pellicce e le signore stanno entrando dentro ai cinema, ai teatri, alla TV. Amore, sorridi, tesoro, sorridi, che siamo in onda. Sottosegretaria, i mandolini, con le sottosegretarie sotto ai tavolini. L'ho perduta al televoto, la regina Margherita ha promesso un pasto caldo ed una bocca a tutti noi. Ma quanto è carina, lo dice anche mia madre, sporca contadina. Viva Superman, i centravanti, viva i grandi attori, i telegiornali, falsi lampi gialli dei carabinieri. Vai temporali, gli anni a correre, che poi ti passa. Viva il mio paese, disperato in onda alla riscossa. Lancio in promozione questa mia canzone inutile per la rivoluzione. Bacio mio amore mio, non ci pensare, e suonerò questa mia canzone sterile alla televisione. Bacio mio amore. Buonasera e benvenuti all'ultima puntata del TG Lercio a cura dell'Onda in Onda. Andiamo subito ai titoli. Grave l'attore Antonio Banderas, schiacciato da una macina a pietra durante le riprese di un nuovo spot. Ferite lievi anche per l'avvenente coprotagonista Jenny La Gallina. Videogiochi ultraviolenti, esce La Bibbia. Il gioco è un'avventura grafica che mescola RPG, stealth e picchiaduro e un'altra decina di parole a caso. Venezia, brutto incidente per un turista australiano. Mangia due pacchetti di Vigorsol e caga un iceberg. Allarme caldo, la protezione civile avverte. Non sdraiatevi a mezzogiorno, cosparsi d'olio su una superficie in lamiera. Umberto Bossi chiede la secessione di Gardaland. Ondata di calore a Roma, record di scivoloni al Museo delle Cere, 592 cadute in un'ora. Nuovo record mondiale di scivoloni acrobatici indoor. Il precedente primato apparteneva ad un McDonald's di Londra in cui era stato rimosso il segnale di attenzione al pavimento bagnato. Ricerca svedese afferma: fare sesso aumenterebbe il rischio di rimanere incinta. Studente di informatica scrive algoritmo che convince le fighe ad iscriversi ad informatica. Texas, giustiziato l'uomo che scorreggiava in ascensore. Papa Francesco assolve i fan di Gigi D'Alessio. Il campione del mondo di scioglilingua Manlio Arrotolamelo è risultato positivo all'antidoping. I giudici insospettiti dalla facilità con cui si rimodellava la frangetta con la lingua. Nonna Ace beccata ad acquistare candeggina economica. E domani Matteo Renzi sorge e scassa la minchia al PD alle 5.30 e tramonta sereno dentro al PD alle 23.30. E questa era l'ultima notizia del TG Lercio, ci rivediamo a settembre, vi ringraziamo per essere stati con noi e visitate lercio.it. Ciao! E l'abbiamo annunciato alla nostra anteprima, è già con noi in diretta al telefono ascoltandosi il TG Lercio, dove nulla di più brutto può esserci, ed è con noi ai microfoni Immanuel Casto. Ciao Immanuel, come stai? Dove sei? Buonasera, sto molto bene, in questo momento sono svaccato sul divano. Svaccatissimo sul divano, ma sei stato a Palermo di recente, hai chiuso il Pride, il Palermo Pride 2013, com'è stato? È stato stupendo, veramente, non lo faccio per ringraziarmi voi, è stato veramente, veramente bello. La manifestazione purtroppo non l'ho vista perché avevo una sera prima un'esibizione a Rimini, però mi hanno detto che è stato un successo. Tuttavia la risposta di pubblico che ha avuto, insomma, la festa di conclusione alla quale ho partecipato è stata incredibile, è stato veramente molto molto bello. E poi hai visto quanta gente c'era qui, era veramente pieno zeppo di persone che venivano a vedere sia la manifestazione sia il dopo, quindi è stato veramente un bagno di folle, immagino. Esattamente, ma poi al di là della quantità, proprio la qualità, la risposta che ho avuto da parte del pubblico, sono andato via contentissimo e con tipo 3 kg in più. Con 3? Scusami? Chili in più. 3 kg in più. Siamo ingozzati come scrofe da pannocchie. Cosa hai mangiato? Le mega arancine? Di tutto, pesce, arancini, mangia e bevi, coperto, si chiamano così. Esatto. Senti, hai visitato per caso la cappella a Palermo? Non ho capito. Hai visitato la cappella a Palermo? No, credo di no. Credo di no, perché so che ti piace molto, dato che c'hai scritto un pezzo, mi sembrava il minimo che tu la visitassi. Io invece di parlare di due pezzi del passato, inizierei col parlare del tuo nuovo singolo, Tropicanal. Come è nata questa canzone, intanto? Allora, questa è una delle mie canzoni più spiritose, divertenti, goliardiche, quindi è nata proprio con questo spirito. C'è tutto, insomma, un immaginario di riferimento, anche molto anni 80, se vogliamo. Se non sbaglio, tu citi un famoso video degli anni 80 di Chris Isaak. Esatto. A parte, vabbè, adesso no, nel titolo no, che non mi viene gag, non mi viene in mente il nome della canzone in questo momento, però ricordo il motivetto. Wicked Games. Wicked Games, esatto. Sì. Esatto. Sì, cioè, perché eravamo indecisi se non fare un video più caricaturale, ma la canzone è talmente già grondante che abbiamo detto no. Se facciamo una cosa stilosa, probabilmente le due cose si esaltano a vicenda, e quindi abbiamo fatto questo remake, rifacendo proprio le inquadrature identiche a quelle del video di Chris Isaak, dove lui balla con una modella, rincorre una modella e fanno così i pazzerelli tra le onde. Esatto, tra l'altro un pochettino Dolce e Gabbana, diciamo, ormai questo bianco e nero, questo maccione che rincorre la ragazza è un po' Dolce e Gabbanizzato, ed è comunque il primo singolo del tuo nuovo album, Freak and Chic. Esattamente, esce a settembre, sono ancora in attesa della data ufficiale, dovrebbe essere annunciata in questi giorni e ne sono molto contento. Senti, ma la differenza con i tuoi album precedenti qual è? Non c'è. Non c'è? Quindi... Ma no, assolutamente, ogni lavoro è un'evoluzione artistica e in primis musicale. Secondo me c'è un notevole passo avanti proprio nella produzione, nelle idee, un disco molto interessante. E poi c'è anche una sperimentazione nella forma, in quanto il titolo è appunto Freak and Chic e ho mantenuto questa divisione nel disco. La parte principale è quella più filologica, più rappresentativa della mia produzione artistica. Dopo c'è un brano di passaggio strumentale e poi i brani in chiusura invece sono brani dove non c'è, no, non è vero che non c'è ironia, perché quello è un po' mio marchio di fabbrica, ma sono brani proprio più emotivi, diciamo così. Quindi c'è proprio questa dicotomia interna all'album e vediamo se il pubblico apprezzerà. Senti, ma dato che tu hai scritto la canzone Escort 25 durante lo scandalo della scoperta in realtà del Bunga Bunga eccetera, come sei... Un po' prima te la immaginavi, sentivi nell'aria? Esattamente, come Che bella la cappella che parlava degli scandali ecclesiastici. Sì. Sono stati dei brani un po' profetici, diciamo. Esatto, io capivo queste, non so come dire, queste dinamiche nell'aria e che poi sono esplose. Ma senti, ma una collaborazione con Nanni Moretti ci hai pensato? Dato che tutti e due... Se si concretizzasse, volentieri. Perché lui ha predetto le dimissioni del Papa e la sentenza sul processo di Berlusconi. Tu hai fatto la canzone sulla pedofilia nella Chiesa e poi sulle escort. Quindi diciamo che se vi incontrate potrebbe nascere anche un bel capolavoro. Che ne pensi? Hai ragione, assolutamente, averlo come paroliere sarebbe ottimo. Attenzione con lui, perché le parole sono importanti. Io quello che apprezzo più che altro nelle tue canzoni è riesci a unire, secondo me, l'estetica allo sceno. Ma come è nato questo diciamo questo connubio che è un po' stona ogni tanto? Cioè, potrebbe stonare in realtà, ma con te non stona. Sì, ma guarda, hai ragione, è proprio la particolarità. Sai, più uno osa, più uno fa cose particolari, più rischia. Ma se poi la cosa ha successo, dopo sei, se non unico nel tuo genere, comunque hai la tua originalità e la tua autenticità. È sempre così, mentre se invece vai nel selciato tracciato da qualcun altro, magari la vita è un po' più semplice, però rischi magari di non godere di una determinata quantità di attenzione. E sì, questo connubio è proprio alla base di quello che faccio. Io mi sono formato come art director, come grafico pubblicitario, quindi le mie competenze concernevano proprio l'immagine. Noi ormai siamo abituati, anche grazie a una serie di artisti o gruppi storici molto bravi, a canzoni ironiche, provocatorie, goliardiche. Però io cosa ho fatto? Ho unito questo aspetto a un'immagine da grossa produzione pop. E questo crea un forte contrasto che può essere spiazzante, perché proprio non te lo aspetti. Cioè, parte un video che sembra il classico video pop o dance e poi apro bocca e uno dice: che cosa sta dicendo? Però questo pugno, se viene recepito in maniera positiva, sortisce un grande effetto e quindi ne sono contento. Senti, leggo però in altre tue interviste che potresti, si vocifera, che tu potresti anche sfondare come regista, anche se hai già diretto un film, A Wonderful Life. Un cortometraggio, sì. Dato che comunque adesso vai in TV, tra l'altro stasera, se non sbaglio, sarai all'ultima puntata di A Gratis su Rai 2. Esattamente, per il finale. Il finale, quindi mi raccomando a tutti quelli che stanno ascoltando, sintonizzatevi su A Gratis per vedere Emanuele Castro. Ma diciamo, questo approccio alla televisione e questa voglia di girare dei video potrebbe essere la tua evoluzione, l'evoluzione della tua carriera nel futuro? Chissà, allora, per quanto riguarda la televisione, le mie apparizioni sono state piuttosto sporadiche, anche proprio per una questione di contenuti. Questa esperienza di Gratis mi ha fatto sicuramente molto piacere, però veniva dopo 2 o 3 anni rispetto all'ultima stagione che ho fatto di Love Line, quindi insomma le presenze sono piuttosto sporadiche. Per quanto riguarda invece il cinema, ho grandissima passione, e non vedendomi a 50 anni a dimenarmi sul palco cantando Tropicanal, chissà che dietro la telecamera invece non possa trovare un'altra forma di espressione. Come dicevi tu, qualcosina ho già fatto e mi ha dato grandissima soddisfazione artistica, anche se adesso non è propriamente il mio mercato. Boh, io te l'ho buttata lì, tu contatta Moretti, magari esatto. sfondato. Senti, la canzone invece che ti ha dato più problemi è quella a cui sei più legato? Ma guarda, problemi alla fine non ne ho avuti le mie canzoni. Se devo dirti qual è la mia esperienza che mi ha dato più problemi è stato il mio gioco di carte Squillo. Sì. Ho avuto un successo enorme, però io mi sono proprio trovato sulla prima pagina dei quotidiani con gente che auspicava che io venissi indagato per reati puniti penalmente. Lì sono stato in difficoltà, anche se poi si è risolto tutto per il meglio. La canzone a cui sono più legato, faccio davvero fatica, faccio fatica a scegliere, forse in effetti Escort 25 è quella che mi piace di più, però anche l'ultimo musicalmente mi piace davvero tanto. Va bene Emanuele, allora noi ti ringraziamo, ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo soprattutto per questa sera. E cosa ci aspettiamo questa sera invece su Gratis? Sarò con il mio partner musicale, Keen, che è quello che si occupa appunto di tutta la produzione musicale. Suggeriremo i nostri nuovi costumi e lui suonerà la tastiera a polla. E in prova ti dico solo che quando siamo entrati per provare questa, eseguiremo una versione un po' così accorciata di Zero Carboidrati, quando siamo entrati qualcuno ha mormorato "ecco i Righeira". Detto questo, attenzione, mica, lì è bruttissimo, però vabbè. Vabbè, è stato dei pezzi storici. Beh, sì, l'estate sta finendo, sì. Figurati, noi ce l'ascoltiamo sempre. La mandavamo quando qualcuno diceva una vaccata, partiva la canzoncina. Senti, va bene, va benissimo. Emanuele, ti ringraziamo veramente tanto. Ci ascoltiamo. Tropicanal, un grosso in bocca al lupo ancora. Ciao, grazie, crepi. Tua crema per proteggermi dal sole, quanta gaia la papaya che sentiamo dentro al cuore. Io rimango come un mango da aprire qui per te, mangio e godo l'avocado, guacamole su di me. Allora guai, prima lo prendi e poi lo dai, e ci investo un fiatto di latte di cocco. Allora guai, prima lo prendi e poi lo dai, giunge dalla costa un ritmo pederasta. Tropicana, tropicana, persi tra le onde, noi con le profonde. Tropicana, tropicana, al chiaro di noi. Tra le palme, bocche colme, di quel succo tropicale, sul mio viso, all'improvviso, uno spruzzo viene dal mare. Abbracciamo un cormorano e balliamo notte di, tra i delfini, che carini, ballo, ballo come un film. Allora guai, prima lo prendi e poi lo dai, e ci investo un fiatto di latte di cocco. Allora guai, prima lo prendi e poi lo dai, giunge dalla costa un ritmo pederasta. Capitano, tropicana, persi tra le onde, noi con le profonde. Tropicana, tropicana, al chiaro di luna, bagnati dalla spuma. La passione per la nonna. Dilatiamo i nostri cuori per ricevere l'amore. Ballo tra le onde infrante, ballo, ballo tra le sfrante. Caldo, turgido e duro, nelle mani un po' duro. Tra i garriti dei gabbiani dischiudiamo i nostri ani. I nostri ani. mi viene voglia quasi di andare alle Hawaii. A te no? Ma non immaginavo che a te venisse voglia di andare alle Hawaii. Come no? Invece potrebbe venire voglia in Nuova Zelanda, in realtà, perché vi parliamo di una vicenda un po' scioccante. Padre a soli 11 anni ha fatto l'amore con la mamma di un suo compagno. E infatti, diciamo, la notizia dell'incredibile. Padre a soli 11 anni dopo un rapporto sessuale con la madre 36enne di un compagno di scuola. La storia del baby papà arriva da Auckland, ce l'ho fatta, no, ho detto Auckland. Auckland, è cominciata nel 2012, quando il ragazzino, di cui non è stata diffusa l'identità, ma c'è una foto. Vabbè, non è diffusa l'identità, non sarà... però abbiamo messo una foto. Vabbè, sarà una foto esemplificativa. È stato portato a casa dalla donna in un giorno di ferie da lavoro. Qui, dopo averlo fatto ubriacare, ma no, la mamma del compagno di classe ha abusato del bambino. Ma non sarebbe stato un incontro isolato il loro. A raccontare tutto l'accaduto è stato il preside della scuola del baby papà. Che ha trovato una bottiglia di vodka nello zaino. Nello zaino, a cui il ragazzino ha raccontato tutto. La vicenda sta sollevando in Nuova Zelanda una questione politica e legislativa. Nell'orientamento vigente, infatti, non è contemplata l'ipotesi di un abusatore di sesso femminile. Il ministro della giustizia Judith Collins ha sottoposto la questione ad un team di esperti che stanno valutando se sia il caso di modificare la legge attuale. Ma io direi che sia il caso. Sarà il caso anche... Ma, altrimenti andiamo tutti in Svezia, dov'è? In Svezia. Nuova Zelanda. Andiamo tutti in Nuova Zelanda, se no. Per trovare le madri 36enni. Il fatto è che comunque, anche modificando la legge, la condanna non può esserci, perché non può essere punito nessuno in forza di una legge che non è entrata ancora in vigore. Questo è un principio generale. Sì, quindi insomma la vicenda è veramente complicata. Va bene, diciamo che con questa ma non notizia... è complicato, c'è il bambino che si diverte, cioè, il bambino che si diverte, insomma, si ubriaca. Insomma, tu non avresti avuto problemi, diciamo. No, insomma, non la vedi così. E vabbè, attenzione, perché l'argomento è delicato, quindi attento a quello che dici, caro. No, insomma, molti, secondo me i bambini, no, secondo me i bambini che hanno detto tutto era per invidia, insomma. la mamma come la mamma di Stifler nel famoso, sì, esatto, American Pie. Attenzione. Va bene, allora, questa era l'ultima puntata, questo è il nostro speciale dell'ultima puntata dell'Onda in Onda. Quindi vi ringraziamo veramente per essere stati con noi. Sì, abbiamo 5 minuti, ci ascoltiamo due pezzi e andiamo via. E vi ringraziamo veramente di tutto. Ci rivediamo a settembre. Rimanete in contatto con noi per seguire gli aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook dell'Onda in Onda, facebook.com/Onda in Onda. Oppure, ovviamente, continuate a seguire la programmazione di Radio Panorama, che non smetterà tutta l'estate, da radiopanorama.it, oppure le frequenze 106.4, 104.1 o 107 per ascoltarci direttamente in streaming. Oppure, ancora, scusate, nell'applicazione TuneIn per smartphone e tablet cercando Radio Panorama. Ma stasera sarà l'ultima puntata. È vero, perché andremo in replica a luna di notte, quindi a mezzanotte. Quindi domani sarà l'ultima puntata. Domani sarà l'ultima puntata. Se volete riascoltarla a mezzanotte, sapete che ci troverete, citando il buon Celentano. Ci ascoltiamo allora Ervar Medrano and the Groovy Monkeys featuring Caparezza con Super Ebete, e poi vi salutiamo. Ciao! Solo lui ce la può fare. Chi salverà la Repubblica? Ma chi è Super Ebete? Senza manteo Super Ebete compare, senza pare Super Ebete se pronto a comprare, senza contare tesserine, pai, sconti, risponde sondaggi assurdi e fa tutte le raccolte punti. Grazie crisi economica, Super Ebete interviene per armadio che se strapiene, ma sta giacca che sta bene, senza neanche a fare reclam. Super Ebete ti aiuta, commerciante sorridente, missione compiuta, parafora, è il tempo che disemmona, sta a casa, ma guarda che roba strana, Super Ebete si in casa, e che la missione da compiere, imparò il povero, un amico carrossiere, un parco macchine da rompere. Mio dai, con Super Bra, scherzo e se che sei io chi sei dispetti, Super Ebete sa tutto e ti nota che parla e di solito fa del tutto e come lo fa se sa sbaglia. Super Ebete super top, si ma chi che cocco sopra stata la domenica metà in affa la cosa per lì per coppa, più fighe con aiuta coppa con la bomboletta kill da coppa, ci tu sbirra poi c'è fra che non si la chiangia la carabanira mira mio dai.